seguite. Or lo vedrai. Ubbidirò d'argento per giovare al mio amor. È tempo di contenti. E d'allegrezza. Al giubilo improvviso. Si placo Dario. Ed oggi al tuo bel sen congiunto vuol celebrare gli alti sponsali. È giunto il sospirato giorno. È giunto, sì. Ma non lo vorresti ancora? Ricordati ancora della tua flora. Ma dov'è? A ciò non turbi le nozze, oronte arpato. Ehi, bramo l'ora che ti guidiam fuor delle mura. Andiam dove verdeggia sulla falda un colle un orto ameno. Vi sarà Dario poi? Colà, t'aspetta! L'indugio mai troncate, dite, con quante lingue oggi favellate? Or vieni! E dove? A trovar Dario!